Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brustolando martedì ai microfoni, vi auguro di trascorrere un'ottima serata in nostra compagnia. Siamo ormai alla fine di giugno, quindi anche brustolando volge al termine e insomma c'è sempre un po' di tristezza, soprattutto perché l'anno sta per finire, quindi tra qualche puntata, quindi ancora qualche ospite, e poi ci saluteremo per la pausa estiva e probabilmente ricominceremo il prossimo ottobre. Quindi saluto Dani in regia, saluto tutti voi che continuate a seguirci sempre con tanta stima e apprezzamenti. Quindi torna un tema di brustolando, non mi dilungo oltre perché l'ospite di questa sera ha tante cose da raccontarci. E tornano le donne, di cui non avevamo ancora parlato quest'anno. Quindi un tema interessante, un tema di cui ci occupiamo soprattutto in alcuni periodi dell'anno, ma questa volta li troviamo piuttosto verso la fine. E questa sera sono veramente contenta perché, paragonato a quello che già abbiamo fatto in queste settimane, cambiamo veramente letteralmente argomento, ma non perché non ce ne siamo occupati a brustolando, ma perché quest'anno ancora non avevamo affrontato questo tema. Ritornano le donne, ma non le donne propriamente moderne, ritornano le donne di un certo tempo, di una certa società. E sono oltremodo contenta perché ritorna con noi Letizia Lanza, autrice veramente poliedrica, che è stata già più volte nostra ospite. Letizia, bentornata a Radio Alma e a Brustolando. Sono felice di esserci. Tra l'altro, stavo riflettendo, non ricordo se l'anno scorso avevamo avuto modo, insomma, di sentirci, di parlare un po' della tua scrittura. Quindi raccontaci che cosa è successo dall'ultima volta che ci siamo sentite. In termini di creatività. C'eravamo sentite proprio a proposito di queste donne veneziane e venete, perché io avevo cominciato a lavorare su questo argomento che poi ho sviluppato molto e quindi era un lavoro in embrione, in nuce, che poi ora è approdato a questo volume corposo e faticoso. Quindi, donne e società. Genealogia di generi ai tempi della Serenissima. Innanzitutto il volume è veramente ricco di testimonianze antiche e moderne, in cui tu racconti per l'appunto le donne della Serenissima, però perseguendo due linee. Una è quella ovviamente della società veneziana, quindi hai raccontato effettivamente come è cambiata la donna nel tempo di quel periodo. E la seconda invece fa proprio riferimento ad una serie di figure della Venezia di allora. Allora, sono veramente curiosa di sapere come hai repertoriato le fonti, quanto tempo hai impiegato per scrivere un volume così ricco di informazioni, dati, notizie, nomi. È stato lungo, è stato faticoso, però anche molto interessante e direi insomma un anno e mezzo, due fra una cosa e l'altra per portare avanti il discorso doppio, come hai detto tu, è un discorso duplice perché è una femminilità in una prima parte legata strettamente alla società e in una seconda parte, sempre ovviamente legata alla società, ma con tutta una serie di figure, di protagoniste che hanno ciascuna una sua specificità. Assolutamente. Allora magari fermiamoci sulla prima parte che tu hai intitolato in una maniera, trovo veramente sublime, Echi di varia femminilità. Che cosa si nasconde tramite tua storia in questo volume? Nell'ambito della venezianità, cioè la Serenissima Repubblica di Venezia e naturalmente tutta anche l'area di influenza, tutto quello che a un certo punto è stato il dominio della Repubblica di Venezia, a partire, comincia a considerare anche delle figure a metà tra storia e leggenda, vedendole nel contesto sociale mano a mano che si sviluppa nel corso dei secoli. Quindi si parte proprio dalle origini più lontane, e poi progressivamente si arriva al momento d'oro, che può essere il 4, il 5, il 600, il 700, fino a quella che è la caduta 1797, la perdita dell'indipendenza della Repubblica. Ci sono delle forti differenze sia per quanto riguarda l'ambito sociale, per quanto riguarda le attività, per quanto riguarda tutto quello che può essere la vita di una donna, delle donne, in una società molto complessa e stratificata come è quella veneziana. Quindi, come hai potuto repertoriare poi le fonti? Perché si va indietro di molto nel tempo. Sicuramente è una parte di lavoro che tu avevi già svolto in altri lavori, ma in questo senso mi pare che questo saggio invece vada al di là di quella che era la tua abituale produzione letteraria. Sì, va molto al di là, perché io, come sai, mi sono sempre occupata essenzialmente di antichità greco-romana, esatto, e anche con delle di tardo antico, ma insomma, e poi in altri ambiti figure moderne, di letterate moderne, non so, Virginia Woolf e altre protagoniste della letteratura mondiale, però questo ambito veneziano e dalle origini fino appunto alla caduta della Repubblica è stata in realtà una scelta recente. Ecco, ho cominciato a interessarmi di questo negli ultimi 2-3 anni, e quindi ho fatto delle ricerche legate strettamente a tutto questo discorso. Tra le tipologie di donne che hai osservato nella tua scrittura ce ne sono diverse, da quelle più scontate, che sono ovviamente le monache, alle donne, scusami, sì, no, dicevo, ci sono figure, no, note, no, come per esempio le monache, le suore, che sono figure che immaginiamo facilmente, ma poi ce ne sono altre che scopro con grande piacere, che sono le dogaresse. Ah beh, le dogaresse sono una figura importantissima della femminilità istituzionale, cioè rappresentano il verso in un certo senso di quella che è la piramide sociale veneziana, perché sono le mogli, appunto, le mogli ufficialmente riconosciute dei dogi in carica. Bisogna stare attenti, perché sulle dogaresse è stato scritto molto, però anche con delle confusioni. Infatti non si sa neanche esattamente il numero, perché alcuni fanno delle scelte, ma io ho scelto questo: le mogli ufficialmente riconosciute dei dogi in carica, cioè mentre sono nello svolgimento delle loro funzioni. Sì. Invece raccontaci un po', cioè, perché c'è un altro aspetto per una persona come me che fa molto sport, delle donne e lo sport, perché questo è stato un altro dei capitoli che mi ha incuriosito. Riferimento all'acqua, alla laguna, e quindi le donne che si distinguono nello sport sono le donne che fanno le regate, cioè le regatanti. E questo è un aspetto particolare della femminilità veneziana, che tra l'altro ha delle origini umili, cioè queste donne che venivano dalle isole portando nelle barche il prodotto della terra, perché appunto c'era, come tuttora c'è nelle isole di Venezia, della laguna, una produzione di ortaggi, di prodotti di vario genere, e quindi queste donne venivano con le barche, le portavano ai mercati, al mercato di Alto, agli altri mercati della città, e quindi remando si abituavano a competere in questo in questa fatica che poi è diventata appunto oggetto di gare anche disputate con grande abilità e con grande energia, con grande forza. Le regate ci sono anche adesso, sono sia di maschi che di femmine, quindi una tradizione che in qualche modo si è perpetuata nel tempo. E questa era una cosa, per esempio, che ignoravo, perché avevo sempre pensato che, soprattutto in alcuni periodi storici, come quello che tu analizzi con questo tuo volume, invece lo sport fosse più effettivamente un affare maschile e meno femminile. Quindi è stata veramente una piacevole scoperta invece sapere che in una città importante come la Venezia di allora, perché insomma Venezia è sempre stata un punto di snodo fondamentale per il Mediterraneo, quindi insomma è bello vedere come fosse già all'avanguardia, come guardasse già al futuro. Concordi? Sì, ma in questo senso è verissimo, perché la Repubblica di Venezia, con tutte le ombre, per carità, assolutamente, certo, ecco, gli aspetti negativi che certamente poteva avere e aveva, fatto di un solo esempio, la forte presenza di schiavi, un numero enorme, e Venezia è stata a lungo uno dei mercati più importanti di questo commercio, di questo traffico orrendo, addirittura, se non ricordo male, il secondo nel Mediterraneo insieme a Cartagine, quindi stiamo parlando di numeri incredibili di schiavi, sia maschi sia femmine, quindi non dimenticando gli aspetti negativi, tuttavia è sempre stato una città, un governo, una repubblica molto illuminata e molto effettivamente all'avanguardia. Infatti anche la produzione femminile, la scrittura femminile è in anticipo per certi aspetti rispetto a quello che può essere l'Europa, a quella che può essere l'Italia per il tempo, naturalmente. Tra l'altro, per l'appunto, cambiando argomento, quindi magari andando proprio negli aspetti che uno potrebbe considerare più negativi, cioè purtroppo per noi è un tema che resta attuale, hai dedicato un paragrafo, scusami, un capitolo alle donne e alla violenza tra vittime e colpevoli, se c'è un elemento che pare essere tradizionalmente apprezzato della Serenissima Repubblica è anche il funzionamento della giustizia. Magari ci puoi raccontare da dove nasce questa tua affermazione, che tu spieghi molto bene nel testo. Sì, allora, le leggi, allora, in effetti l'amministrazione della giustizia a Venezia è, per tradizione, nella Venezia Serenissima naturalmente, per tradizione considerata buona e migliore, senz'altro migliore, rispetto agli altri stati dell'Europa. Le leggi erano accuratamente elaborate e anche fatte rispettare. Naturalmente anche qui si parla ovviamente della pena di morte, si parla ovviamente di carceri, di detenzione, che ovviamente poteva essere molto dura, però bisogna sempre fare un confronto, un rapporto con la situazione degli altri stati in Italia e in Europa. Non stiamo parlando di un'Italia ovviamente divisa, per cui c'erano i ducati, c'erano le signorie, c'era, quindi quando si parla di Italia in quell'epoca lì bisogna sempre tenere presente com'era il mondo. Ecco, da questo punto di vista pare, almeno nel complesso delle valutazioni, si considera la Repubblica Serenissima più, tra virgolette, giusta, ecco, rispetto alle altre realtà del tempo. Allora, abbiamo esaurito così velocemente, senza svelare troppo ovviamente per gli amici all'ascolto, quella che è la prima parte che tu hai chiamato echi di varia femminilità. Prima di passare alla seconda parte, dove invece tu focalizzi l'attenzione proprio sulla genealogia di queste donne, c'è un bel intermezzo, quindi, che tu hai dedicato alle donne viste però dagli uomini del tempo. Quindi, che cosa pensavano gli uomini di allora del gentil sesso? Ecco, sì, questo è il capitolo che io ho voluto mettere come cerniera, diciamo, tra la prima parte e la seconda, proprio per dare uno spaccato di quello che poteva essere la visione maschile, anche qui con delle differenziazioni a seconda dei momenti storici, e anche a seconda delle aree, perché io ovviamente faccio solo una campionatura, una serie di esempi, non è che posso considerare tutte le posizioni dei letterati, degli studiosi del tempo, ma un certo numero, tra cui per esempio Tasso, che è una figura molto importante e che è molto positiva nei confronti appunto del debito sesso, del non sesso, del debito sesso, come si vuole dire, per dare un'idea di quella che era la visione androcentrica nei confronti della femminilità. Ed è venuta fuori, secondo me, una cosa interessante, perché ci sono delle posizioni diametralmente opposte. Alcuni sono negativissimi. Il peggio di tutti è un opuscolo che esce a Francoforte, che poi viene tradotto anche in italiano e viene diffuso in Italia, dove si dice che le donne non fanno neanche parte della specie umana, cioè sono qualcosa come animali, quindi qualcosa al di là della classificazione umana. Quindi da questo estremo negativissimo si arriva invece a una forte esaltazione delle donne. Per quanto riguarda nello specifico Venezia, il massimo è che Giovanni Palazzi, che fa un libro proprio molto particolare, con le carte da gioco al posto delle immagini, una cosa molto molto interessante, e esalta al massimo le donne. Però appunto ci sono anche figure non strettamente veneziane come Tasso, che peraltro pubblica a Venezia proprio il suo discorso della virtù femminile e donnesca, dove anche qua la donna è rivalutata al massimo. Allora restiamo sempre con questa figura di riferimento che è la donna veneziana del tempo. Allora andiamo avanti, proseguiamo nella tua lettura e ci troviamo ora tra Medioevo e Umanesimo. Allora, se volessimo qualificare la donna del tempo, ci sarebbero degli elementi attraverso i quali potremmo darle un'identità e quindi riconoscerla proprio riconoscere la donna veneziana rispetto ad altre donne che pure sicuramente si ritrovano in altre scritture, in altri lavori, in altre ricerche. Comincio a considerare appunto a partire dal Medioevo, quindi a partire da una figura che in realtà di veneziano ha solo la nascita, perché poi vive e scrive e lavora a Parigi, che è Christine de Pizan, che però è una donna appunto di grande apertura intellettuale e di grande produzione letteraria, e io passo da questa che è una figura medievale a quelle che sono le prime letterate, cioè le umaniste. Stiamo parlando del 400 e sono una veneziana che è Cassandra Fedele, famosissima, e un'altra Isotta Nogarola, che è comunque di ambito veneto. E poi mano a mano, nel procedere del tempo, fino appunto alla fatidica data del 1797, quindi alla fine del 700, inizio del 800, nel procedere del tempo io considero, diciamo, di secolo in secolo o di genere in genere, la produzione femminile che è molto significativa, è molto importante ed è molto originale. Ovviamente non entro nei particolari minimi, certo c'erano anche delle figure, diciamo, meno identificate e meno importanti, ma insomma presento un'ampia, amplissima direi campionatura di autrici e di artiste nei vari campi e nelle varie manifestazioni, quella che è proprio la specificità femminile, perché io qui quando parlo di genealogia di genere intendo proprio una produzione che si connota al femminile, che riconosce il valore della femminilità pur in tante declinazioni diverse. Hai preceduto la mia domanda, perché era proprio quella di chiarire proprio il significato di genealogia di genere, perché trovo che effettivamente il lavoro che tu abbia fatto veramente metta in luce effettivamente quest'opera al femminile, però sono contenta che tu l'abbia detto spontaneamente, perché effettivamente per chi deciderà di acquistare il volume, effettivamente ci sono tante protagoniste in più settori, perché Letizia veramente analizza, per esempio, le donne, le cortigiane, le donne nei salotti, le donne del giornalismo, insomma, le donne pittrici, coloro che praticamente producevano musica. Quindi voglio dire, hai raccolto più icone in un numero effettivamente elevato di settori. Allora, mi rendo conto che la domanda è un po' difficile, perché farebbe sicuramente, insomma, faremo torto a qualcuna delle tue donne qui descritte, ma ce n'è una di questi ritratti che tu hai proposto nella seconda parte del volume, che magari vuoi segnalare, vuoi sottolineare agli ascoltatori di Radio Alma e di Brussellando? Oddio, in effetti ce ne sarebbero parecchie. Io vorrei solo nominarne due, forse sono anche molto famose, o tre, ecco se posso dirne tre. Una è Assolutamente. una cortigiana definita onesta perché era una persona di grande livello, era una cortigiana di alto bordo, diciamo, e anche con grande capacità di scrittura, che è Veronica Franco. O Franca, comunque è famosa. Un'altra è una figura strana, molto molto femminile, molto molto aggressiva, molto molto agguerrita, che è una monaca forzata nella monacazione, cioè una monaca costretta a diventare monaca. La Monica di Venezia, possiamo dirlo allora. Monaca di Venezia, esattamente, che è Elena Cassandra Farabotti, nota come Suor Arcangela, e poi non posso non nominare, anche se appunto altre ce ne sarebbero da ricordare, quella che è in qualche modo l'emblema delle salottiere, delle letterate salottiere, le salonnière, no, su esempio della Francia, che è Isabella Elisabetta Teotocchi, Marin Albrizzi. Io tengo sempre a dire tutti i suoi nomi e cognomi perché è una donna di grandissimo fascino, di grandissime avventure, anche amorose, di grandissima ricchezza. È forse la figura più famosa dell'età d'oro, ma ormai alla fine di Venezia, perché appunto diciamo, lei vive tra il 1760 e il 1836, un incontro nuovi padroni, i padroni della città. È una donna che appunto avendo tutti questi aspetti di, come si può dire, complicità e disponibilità nei confronti degli uomini, che l'hanno sempre amata e omaggiata e tutto quello che si può dire, e anche doviziosamente, ricchissimamente mantenuta, però ha secondo me, non solo secondo me, ma insomma riconosciuta, una forte attenzione e una forte solidarietà nei confronti delle altre donne. E emblematica di questa sua scelta, appunto di questa sua consapevolezza di genere, è la vita di Vittoria Colonna, nella quale lei tra l'altro prende posizione contro quella che è stata la esclusione e la limitazione della femminilità da parte degli uomini nel corso dei secoli. Quindi fa un discorso, fa dei discorsi non solo in questa opera, ma soprattutto in questa opera, che si potrebbero tranquillamente definire di femminismo ante litteram. Però concludi la raccolta con un titolo veramente interessante, no? Almeno al femminile, Donna è di più. È riferito a questa figura, Isabella Elisabetta Teotocchi Marin Albrizzi, che in qualche modo è non so, una summa, ecco, della femminilità, di quella che può essere l'espressione, sempre parlando però in questo caso di una donna di classe sociale privilegiata e con delle qualità appunto uniche, incarna in qualche qualche modo quello che è il meglio e il massimo della femminilità. E volevo arrivare a questo, a dire che il valore donna è, può essere un valore aggiunto. Assolutamente, guarda. Marie D, come sai, sostiene questa causa da anni e infatti sono felicissima di aver potuto parlare con te di questo tema questa sera, di averne parlato in maniera positiva, perché insomma ultimamente purtroppo mi sembra di leggere in Italia, ogni volta che parliamo di donne, leggiamo solo brutte notizie. Letizia, stai lavorando già a qualcos'altro? Cosa bolle in pentola? Ma io sto lavorando a qualcosa che mi riporta alla mia origine di antichista, di grecista, però anche lì con una attenzione alla femminilità. Faccio solo un riferimento vago alla chioma di Berenice e alle regine egiziane. Ecco, non voglio aggiungere altro, ma se riuscirò a portare a termine questa cosa, che è molto più ridotta come dimensione, ma è approfondita, un lavoro di statistica, quindi conti, quindi ricerca, eccetera, eccetera, penso che potrebbe essere anche questo un discorso interessante. Assolutamente, quindi ti strappo una promessa, appena sarai pronta, non dimenticarti di Radio Alma, di Brussellando e di Marie D. Certo, senz'altro, con grande piacere, e grazie a tutte voi, a tutti voi, e a presto. Letizia, ti ringraziamo, come sempre è sempre un piacere leggere dei tuoi saggi, e quindi ricordiamo Donne e Società di Letizia Lanza, genealogia di genere ai tempi della Serenissima, edito da Aracne, cui vanno anche i nostri saluti. Tra l'altro il tuo volume fa parte di una raccolta che proprio parla delle donne nella storia, tra segni, tracce e percorsi, magari sarebbe carino saperne di più. Letizia, magari ne riparliamo? Sì, sì. Perché magari chissà, c'è qualcosa anche sulle donne qui in Belgio, magari qualche donna magari del regno francese oppure tedesco, insomma dei paesi confinanti. Ah certo, può essere un bel filone da percorrere, una bella traccia da considerare. Almeno per vedere se quando parliamo di identità, in un momento storico in cui magari non c'erano strutture come quelle nelle quali viviamo adesso, c'erano invece valori e identità comuni. Questa potrebbe essere magari una riflessione che potremmo fare in un'altra intervista. Certo, d'accordo. Va bene, allora buona serata ancora, a prestissimo, e aspettiamo quindi la tua prossima fatica letteraria. Grazie. Buonasera. Grazie, anche da me buonasera. Buonasera. Cari amici e cari amiche di Brussellando, ben ritrovati, ben ritrovati a Brussellando After. È un momento un po' triste oggi perché, come saprete, insomma, dopo le ultime novità tristi, dopo gli ultimi fatti accaduti in Tunisia e anche in Francia, insomma, dentro tutti noi io sono convinto che scorra un po' di paura. Queste cose ci rattristano quantomeno, e perché no, ci fanno paura quando ce lo chiediamo. Sono convinto che ce lo chiediamo tutti quanti, quando succederà a noi, quando succederà ancora. E però, anche se in questo momento io voglio unirmi al dolore delle famiglie, di quelli che cercavano semplicemente un po' di riposo, un po' di ristoro, e hanno invece trovato una morte, io e il Fiordaliso insieme ci sentiamo, come dicevo, uniti. Ma vogliamo anche ribadire il concetto e l'utilità della radio. La radio è importante perché la radio dà anche un messaggio, la radio non ci fa sentire soli. E questa sera sentirete qualcosa di un po' particolare. Noi vorremmo ritornare, non farvi cadere la depressione, ma farvi sorridere un po' e farvi sapere, e continuare a farvi sapere che esistono delle forze, c'è gente che si impegna, che cerca di fare, che queste cose che sono successe non ci devono fermare. Ma vi lascio all'intervista. Ciao! Cari amici e cari amiche di Brussellando, sovente abbiamo delle chicche da presentarvi. Questa però è una vera chicca, visto che Radio Alma è una radio multiculturale. Questa sera abbiamo una persona speciale accanto a noi, una persona che ci racconterà qualcosa di straordinario. Straordinario perché? Perché siamo appena usciti dalla proiezione di un film che ha il titolo, non ha ancora un titolo in italiano, ce l'avrebbe in inglese, ma in italiano sarebbe, per una ragione inesplicabile. E in effetti questa è la traduzione dell'inglese, perché il titolo è For an Inexplicable Reason, il titolo in inglese in realtà ha anche un titolo in una lingua diversa. E qual è? Per dire il titolo in una lingua diversa? Meglio chiederlo alla nostra ospite. Allora, chiediamolo direttamente alla nostra ospite. Allora, vi introduco subito Julia Derkes. Ed è, come avrete capito anche dall'accento, non è né italiana, né polacca, né altro, è inglese. E quindi finalmente abbiamo la lingua di Fiordaliso che viene alla luce. Però l'intervista la facciamo in inglese, ve lo promettiamo. Sì, l'intervista non possiamo farla in italiano perché Julia non parla italiano, forse parlerà un giorno italiano, ma per il momento no, quindi dovremmo fare l'intervista in inglese, ma siamo certi che voi ascoltatori di Radio Alma non avrete difficoltà con l'inglese. So, Julia, I'll just say that the title in English is for an inexplicable reason, but what is the original title? The Hungarian one, you mean? That's even longer. It's Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. Okay, so now we have understood that Hungarian is a little bit more wordy than English. A little bit more. There's much more detail than English. It's also different, I would say, because it means there are things that are strange and unexplicable. So. We have to shorten this title. So, Julia, this was really a very beautiful film. I mean, it's incredible. Then you will understand now why it's so strange to have a so good film now that we will explain the story. So, how this movie was born? Where? France, university, which was the country? It was a university project. It was the diploma film of the director, whom I have been working since the beginning. So we made 6 short films, and this was our first feature film together. So it's quite a long collaboration. And he got the funding for his diploma short film, and then he came up with the idea to make a feature film out of this. So evidently we had a huge budget issue from the beginning, but we set up some rules how to do it, so what we know from the beginning that we cannot afford, and the director decided that he wants to be the cinematographer. He wrote the story, he composed the music, he even drew the subtitles at the end credits. Mm-hmm. So it was a very, very much like a baby to him, and the whole idea came from 2 things, actually. One, that he was really missing in Hungarian films, that they are not playing in nowadays, and you cannot really relate to any of the locations, and everything is kind of something that's far away, and he wanted to make a super realistic story that's playing today and has the situations that we have in the background. And sure, the story for him started with a breakup as well, that a really long relationship of him ended, and this is how the whole idea came from, to make this clumsy guy who's left by his girlfriend and he doesn't really want to grow up, and he's still supported by his parents. And of course, a lot of the details in the film are fictional, so it's not a purely autobiographical film. This is what usually people say. You discover that it's fully the real biography. No, generally they say 1/3 from you, 1/3 from friends, and 1/3 invented. Yes, Gabor would say 68% autobiographical. I think a little bit more, but I know it's not fully so. So everything started at university, and you had a very, very low budget. So the results of the film, if you see the outcomes of the film, I mean, it's incredible. This movie is very beautiful, really. It's funny, it's interesting. You may maybe notice that it's the first big opera of somebody, but it's full of ideas, and I really love it, really love it. And so the second question is, how much time did it take to have the movie? It was quite a hard process, because actually it took 1 year to shoot it. And I mean, we were really shooting hectically, so it wasn't like a normal setup in a shooting that you have the money and then you have 35 days. It was rather, we needed 4 seasons in the film, so of course it had to take over a year, but you know, there was a month when we shot 3 days, and then on a weekend, and then the next month, one day, and then 5 days. So it was really worrying. But the good thing about it was that the director and the editor, they started working on it from the very beginning. So we could always see where the story is going, what's not working, what has to be changed. So there was always space to try to make it better. And actually, this is quite a luxury. And I also think that the reason it became a nice story somehow is that there wasn't this typical pressure on it. So we were shooting with a very small crew. We were doing a lot of guerrilla style shooting. All the interior locations belong to some of our friends. So the restaurant was our headmaster's from the university restaurant. The parents' flat was my parents' flat. So this way we had a lot of freedom to do it. And I think it helped a lot that we didn't have any kind of pressure in it. But of course, on the other hand, it made it harder as well, because though we were shooting with a very small crew, of course you cannot accept the crew to be, you know, ready for you 100% throughout the year. So, I mean, the worst story was when we needed for a Sunday shooting a sound engineer, and I called 49 sound engineers, and I didn't know this much exists in our country, but apparently it does. And then finally we found someone who came, but I, you know, the way after 40, I was talking to them, have you ever had a microphone in your head? You know, how you push the record button? So we had stories like this, of course. And also the Portugal scenes that we did, it was only the four of us, for example, that went to Portugal, because, of course, we didn't have money. So it was quite, it was like a good adventure. Like, yeah, very good adventure. Absolutely. You cannot see the face of Julia, but she is really... I say she's smiling all the time. So, you know, this has been a good experience, a very beautiful experience, I'm sure. So, just going back, because you already say something about trauma, but I would like to know something more about the story. What is the story behind? The story is basically we go with one main character the whole time. He's Aaron. He's 29. He finished his university and has what we would say a worthless diploma. His parents are still supporting him, and he doesn't really intend to get a job and grow up. And sure, his girlfriend left him, so he's basically licking his wound all the time. And he's very much a passive character, with whom things happen just. And then after a drunken night, he wakes up and realizes that he bought a one-way ticket to Lisbon. So the story, most of the story talks about this time before he leaves, the relationship with his friends, the conflicts with his parents, who, of course, sure, they want him to grow up, but on the other hand, they don't want to lose him, and they want to, you know, have him around still. And then at the end of the film, he does decide to go to Lisbon, but then he comes back, because actually running away doesn't solve his problem. Something changes, but he realizes that, sure, he misses Budapest, and he misses everything there, so he goes back at the end. So the message is a little bit, this reminds me about Seneca, the philosopher, who was writing to Cecilia, saying, it's absolutely unuseful that you go everywhere the problem is inside you. Yeah. And this is more or less what you have. I have to make a Hungarian reference. To me, instead, it reminds of Tamási Áron, who says, we are in the world to be at home somewhere in it. This is a little bit different, because you're right, but if my home maybe is not where I born, so it can be somewhere else. Maybe. This is Hungarian addition to Seneca. but I mean, on the other hand, it really talks about an active thing or problem we have now. Is sure, all, I mean, most of our friends left the country, so this is something that we have to acknowledge, that a lot of them decide to go abroad and try maybe a more stable life there. So sure, it was something that was in our head, you know, to talk about this, that it is sure, all of us have friends that left them. That's absolutely true. And it's not only true for Hungary. So actually, I would see this film resonate in many places for different reasons, because this is a reality that is not only Hungary. No, not only Hungary. I'm Italian, so. But I also, and we are in Brussels. Yeah, we are in Brussels. So that another question is, Weinbrass, so how did it happen that you went, you arrived here to Brussels for actually, this movie? Actually, it was quite a pleasant surprise because we were invited here. And this was the premiere in Belgium. And I cannot tell about further screenings because it depends on if any festival takes the film. But I really do hope so to come back here and show it to more people. But it was fortunate. They invited us and made a special screening. So now we know about the drama, about the texture of the movie. And yes, I'm not the only one who says that it's a beautiful movie because apparently this movie has been appreciated as well and has won some prizes, isn't it? Yes, I mean, we had our world premiere last July in Carlo Vivari International Film Festival, and ever since that it has been to more than 30 festivals, so it's doing quite well in festivals, and it has won, I think, 7 international awards until now. Foreign Turin Film Festival, which was an amazing experience. We won in Siberia, which I still cannot understand, and in Bulgaria, and so, yeah, I mean, I'm very happy when I see, or when we see good audience reaction, because of course, the story is very Hungarian, and we were a little bit afraid before the first international screening, how the audience will react, if they will understand it, but so far, it seems that apart from Monte Carlo, they understood it everywhere. So, yeah. Maybe I think Monte Carlo, they don't understand the story in itself, so it's difficult for them to understand the surrounding, the background. It's another one. Are they living on the moon then? well, it's Monte Carlo, isn't it? Yeah, but you know, they have different problems, and sure, they have much more money, so these, you know, small money issues are not really, I think, maybe familiar to them. But it's okay. I mean, it's not, you know, some people don't like it, so it's fine. So you have been in Italy, isn't it? Yeah, we have been in Turin Film Festival. You won a prize. 4 prizes. Yes. 4 prizes, wow. There. Yes. So. But my favorite prize was we won the prize from the film school for the best script. And when I heard that, I almost, you know, I was laughing so hard because this film never had a script. So we had a treatment, and then we did a lot of rehearsals, and on the rehearsals the director recorded them and wrote the dialogue after. And this, we're always joking with the director when he's talking about the script. I always say, Gabor, you didn't have a script. And then he say, yeah, but at the end I had a script. So, yeah. Fantastic. So it was a work in progress, actually. Yeah, let's say it was. But it was a nice work in progress. I mean, it was a really very much improvisation was going on, and that can lead to a lot of good things and a lot of good ideas. So, you said you had rehearsals before shooting, and then you had also, and this is a question, you had so many tentatives. I mean, you tried more and more the same scene, or was just 2-3 shots per scene? It really depended how it was working. Sometimes we went somewhere and did it in 2 shots, and sometimes when it was bigger dialogues and longer, then, you know, and somebody wasn't working well, then even during the shooting we changed some scenes. We said, okay, you shouldn't say this sentence, let's give it to him, the other friend, and maybe it will work better. So even by the shooting there was some experimenting going on. But yeah, sometimes it went really fast because I mean, small crew, so it was, you know, light and easy to move to a next location and to change anything. So, but yeah, I mean, sure, we had a storyline, so we knew what's going to happen and we knew where the film has to start, finish, and start, you know, be in the middle. And sure, during the editing we changed some scenes and then it was working better. It had a better rhythm, but. The thing I like about it is I think that the dialogues are quite lively, so not, you don't feel what I feel in a lot of Hungarian films, that, you know, the script was written and I feel sorry for the actor during the film, that why he has to say this sentence like that. So I think this we could avoid with this technique. How about the friend who doesn't speak? Yes, it's very intriguing. I it's quite beautiful, so you can shut up. But he has a big singing scene at the end. Oh, yeah. He's actually a high school friend of the director. Mm-hmm. as well. And now after the film, they made a band playing the songs of the film, and he's the drummer. So he's a really fun guy, but Gabor decided that he shouldn't be speaking during the film. And sometimes they were really funny scenes, because when we were shooting the backflashes, when the guys go drinking, and of course they were drinking in real life, and they were going from bar to bar. And then a lot of times this guy, the guy who doesn't speak, forgot about himself and he was speaking, and then everybody was saying, "No, you don't speak, you don't speak." Yes. And then another curiosity is the sixth Esther. I mean, I don't know if it was six persons or it was just a manipulation of the movie. It was a manipulation of the movie. It was difficult because they were really similar. Because they were the same person. We didn't cast the same looking girls. No, this was also the... So for the director, he always makes in his films, he really likes these dream sequences and these little bit absurd kind of scenes, and we also felt that it's fitting well in the film. So this was one of his ideas to, you know, make his ex-girlfriend come and show up six times on the screen. Another question, maybe the last one. I don't know if you have another question in mind. Who knows? But because I'm close at the end. Yeah, in fact, I mean, time is running always. Time is always running, in radio and movie and so on. But I have two questions about the rhythm. The rhythm of the film, so is something that you did during the film also, or at the editing? We had a quite long editing process, and actually it was very fortunate that the main character is wearing the same clothes basically during the whole time, so it helps. I think I will try to stick to this in the future because then it's like a puzzle and you can put the scenes wherever. But sure, apart from joke, sure, a lot of the rhythm things, sure, in the scenes they happen while shooting, but also it's, you know, it's the editor and the director who make the rhythm good. So it's a lot of afterwork to see that, okay, this dialogue should be shorter, can we cut to another scene, can we change it? So it's mostly in the editing room. So last question, it's not really the last one, is how can our listener see the movie? Is it possible to see on CD, DVD, on whatever places, cinema, whatever? I mean, we really hope so. It's actually the sales agent's task. She's trying to sell it to different movies, so maybe you can talk to Belgian distributors to bring it in. hopefully it will be in festivals. I really hope so. In Hungary, it's actually in Hungary, it's still running in the cinema, which is more or less a miracle since it premiered at the end of October. So I'm still surprised to see that. I mean, 2 weeks ago it was running in four different cinemas, and that's quite strange, but that's good. In Hungary, the DVD will come out in autumn, so I think maybe some fellow Hungarians might bring it to the country. But I do hope that maybe somebody picks it up. Now they sold the film already to Poland, to Germany, and to Austria. So I mean, it's in process, but I cannot say anything about it because I don't know. What about Ara? I'm interested. Is acting now, or is what? He's absolutely not an actor. He's actually a director student of the director. So they were classmates. The reason that Gabor discovered him is because during the university they had a lot of these, you know, small tasks they had to do, like they had cinematography classes, and then of course they were acting for each other. And then Gabor saw from the beginning that he has a really good presence in front of the camera, and it was also quite obvious from the beginning, even before we found Aaron, that this has to be an amateur, like a non-actor. We didn't want someone who's acting these lines, but rather, since he's quite passive, rather somebody that can, you know, exist in front of the camera and just like go with the scenes and the things happening to him. But he's not an actor. He's writing scripts and directing short films, and soon he will direct his first feature film as well. So, Aaron, please stay on your feet. The final message. When there is this beautiful scene that, but I will not discover everything about the movie, just to give you the idea of the movie. And my last question is, the role played by Julia. Sorry, Julia. I'm sorry. My mistake. The role played by Julia. You are the producer of the movie. How happened? So, what's your? How have you been involved in this? Actually, a lot of people think that producers only get the money and then that's it. But in this case, we didn't really have money. So we found a lot of sponsorship and a lot of help from our crew. But this was quite a creative process with this, with Gabor, because from the beginning when he was writing the treatment, we met every day and then he read what he wrote and then we talked about it. Of course, we had a lot of fights. And then when he was shooting, whenever I could be there, because I also have a job, so I mean a lot of times I had to be at my workplace, but whenever I could, I went to the shooting. And then I think the best process was the editing, because they were editing with Gabor and the editor, and whenever they had something, a new version, then I went to see it, and then we made notes, and then we talked about it, and we tried to change it. So basically, this was a, you know, I was involved from the beginning until the very end, even when we premiered the film, to take care of the sales agent, to take care of the festival, now the DVD. So it's quite a lot, but it's a good thing to do, if you believe in the project, of course. I'm sure that you believe in the project, because the project has a very beautiful, very good outcome, really. I'm really convinced about it. So, I don't know if I can ask Julia to say something about the future. The future of Julia, because we know about the future director, the beat, about the actor, about the future of Julia. Well, I hope to make a lot of similarly good projects. We call this project a love project, because it was so. Sure, it's very rare that you can make it like that, but now we are developing the second feature film with Gabor, and I also made some shorts, and now I will shoot a foreign production in Hungary. So, I mean, so far I can see the future for the next, let's say, 2.5 years, but I'm never really worried about it. So whatever has to happen will happen. But I like to do this work until, you know, I have such this passion and energy to do it. And when I don't, then maybe I will do something else. So I'm not really thinking about the future. Live in the present. So I can we can close this interview saying live in the present is the message of Julia. But please remember this name, Julia Berkes, because we will see her around in the next future. This is something I'm sure, absolutely sure. So thank you again, Julia. Thank you. For this beautiful interview. And many, many congratulations for the movie, because it was a really beautiful movie. And I hope that we have the what it deserves in terms of fame, in terms of knowledge, and being known by other people here in Brussels and all around. And elsewhere. And elsewhere, why? Yeah, in Italy, of course, same, because I think that in Italy this could be a good movie. In fact, if you want to press this movie, because it would be, really, for Italians, this would be a really good movie. Very funny, very absolutely funny. So thank you very much again, Julia. Arrivederci. Ecco, e con in questo saluto di Julia, che ci ha detto arrivederci almeno in italiano, provateci a voi, provatevi voi a dirlo in inglese se ci riuscite. Io vi saluto e noi ci sentiamo la prossima volta, anzi, non so, adesso nelle mani di chi vi lascerò, lo dobbiamo ancora guardare, anzi, ormai il tempo è stringe moltissimo, perché sennò è 20... ormai abbiamo fatto una lunga intervista, io, a me non resta altro, scusate, questa sera la voce mi manca. A me non resta altro che salutarvi e sperare di darvi anche la prossima volta un'altra chicca. Tu hai già in mente un'altra chicca? Beh, ci lasciamo anche noi trasportare. Va bene, ci lasciamo trasportare, abbiamo avuto un sacco di belle interviste, io credo che sia proprio lo scopo, una delle belle cose di Radio Alma, quella di, e soprattutto di Bruxellando, quella di riuscire a portare delle cose nuove, cosa è quello che si muove a Bruxelles, l'agenda culturale di Bruxelles che si muove, non quella che si legge solamente. Bene, ciao a tutti e a martedì prossimo. Ciao. Ciao.